Siamo con Mario Corvini, direttore della New Talents Jazz Orchestra, che presenta il concerto Il Jazz va al cinema a Roma, alla Casa del Jazz, il prossimo 31 luglio, martedì. Mario, ben trovato. Federico, grazie, grazie mille, grazie mille. Volevo appunto presentare questo concerto del 31 luglio della New Talent Jazz Orchestra alla Casa del Jazz in un piccolo contenitore di alcuni concerti in cui ci sono alcune band che suonano musica film, cioè associano la musica jazz alla musica da film. E nel nostro caso riportiamo il nostro vecchio format che abbiamo proposto per 2 stagioni consecutive al Teatro Palladium, però questo diciamo è un contenitore, un concerto unico in cui facciamo dal musical al noir alla commedia all'italiana, alla commedia americana, al cult e action movie, e quindi diciamo un putturri di vari generi raccolti tutti in un concerto solo. Sì. Quanti saranno i brani? I brani saranno 12 brani, a partire da Sing Sing Sing, Musical, che poi è il Ah. film Belle Gunman Story, The Man with the Golden Arm, il noir famosissimo con Frank Sinatra, L'uomo dal braccio d'oro, poi la bellissima ballad Laura, dall'omonimo film noir degli anni 40, Days on Wine and Roses, un altro noir famosissimo con Jack Lemmon, e Moon River, una delle commedie americane più importanti della storia del cinema americano, appunto con Audrey Hepburn. Over the Rainbow, questo fantasy anni 30, appunto del Mago di Oz. Gasman Blues, la nostra commedia all'italiana, musiche di Piero Umiliani. Il Negro Zumbone, un'altra commedia all'italiana, musiche di Armando Trovajoli. Poi Smile, anche tratto da Tempi Moderni, composto da Charlie Chaplin, Peter Gunn, famosissimo cult poliziesco, e poi Star Wars, Dulcis in Fundo, come a concludere questo repertorio di appunto le musiche di John Williams per il film che gli ha dato molti premi Oscar, tra l'altro, e poi come bise Mission Impossible. Mario, come di consueto, ricapitoliamo un po' il viaggio della New Talents Jazz Orchestra. Bene, l'orchestra nasce nell'ottobre 2012, nasce come laboratorio didattico, ma che poi ben presto diventa un'orchestra professionale. I ragazzi nell'arco di 6 anni sono cresciuti molto, sono sempre molto giovani, perché all'epoca 6 anni fa erano giovanissimi, adesso sono comunque giovani. Abbiamo intrapreso tante attività concertisti durante questi 6 anni, fino ad approdare come orchestra collaboratrice giovanile all'Auditorium Parco della Musica. Adesso siamo in tour, questo tour che abbiamo vinto con il bando SIAE Si Illumina, un progetto dedicato a Thelonious Monk. Siamo stati a Umbria Jazz, Montalcino, saremo a Pescara Jazz, Fano Jazz, e quindi l'attività si è incrementata di volta in volta. Fortunatamente siamo riusciti ad avere una buona attività concertistica. Sì. Mario, quanti elementi al momento? Al momento siamo 17 elementi d'orchestra, più me direttore, più Maurizio Miotti, collaboratore, che in questo caso, nel caso del 31 luglio, è l'ideatore della rassegna Il Jazz va al cinema, è curatore, ideatore e curatore, quindi curerà anche la composizione dei brani, gli screenshot che verranno proiettati sullo schermo durante il concerto, e autore appunto dei testi di presentazione tra un brano e l'altro. Quindi è un format molto interessante. Poi, per chi già ci conosce, che è già venuto al Teatro Palladium, sa benissimo il tipo di progetto che proponiamo. E al Teatro Palladium abbiamo avuto un grandissimo riscontro di pubblico, e spero che anche alla Casa del Jazz portare la nostra rassegna tra jazz e cinema all'estate, una cosa un po' diversa, però probabilmente all'aperto nel parco bellissimo della Casa del Jazz sarà sicuramente altrettanto interessante. A proposito della rassegna, è in preparazione anche l'edizione per il prossimo anno al Palladium? Assolutamente sì, probabilmente non lo faremo nel periodo autunnale, ma lo faremo nel periodo primaverile. Okay. E abbiamo già parlato con Luca Versano, professor Luca Versano, responsabile dell'attività concertistica al Teatro Palladium, il quale ci ha già comunicato una serie di un programma di 4 concerti, e adesso stiamo in fase di elaborazione, anche se già abbiamo idea di quello che faremo. Faremo sempre cose diverse rispetto alle 2 stagioni precedenti, quindi aggiungeremo nuovo materiale a questo format già di per sé molto ricco e molto interessante. Per seguirvi ci lasci nuovamente i riferimenti web? Allora, noi abbiamo un sito internet, ntjorchestra.it, un sito web, e abbiamo la nostra pagina Facebook, su cui mettiamo tutto ciò che facciamo. Abbiamo anche preparato una pagina evento per il 31 luglio, ma comunque sulla pagina Facebook abbiamo tutta la nostra attività, e chi vuole mettere like ci può seguire e seguire le nostre scorribande. Ecco qua. Ricordiamo il nuovo appuntamento con Il Jazz va al cinema a Roma, alla Casa del Jazz, il 31 luglio, martedì prossimo. Un saluto e un ringraziamento a Mario Corvini, direttore della New Talents Jazz Orchestra. Mario, un abbraccio e alla prossima. Grazie Federico, un abbraccio anche a te, e spero di vederti il 31 sera, dai. Ok, dai, ciao. Il nostro ospite d'onore. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.